Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Una buona serata, cari ascoltatori e gentili ascoltatrici. Come ogni domenica siamo qua a farvi un'oretta di compagnia. Allora, chi vi saluta è Gesi e Antonio. Allora Antonio, siamo qui. Come ogni volta, per dare qualche indicazione, qualche, come dire, intrattenere in modo intelligente, speriamo, diciamo, e anche accattivante i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, alle quali diamo un cordiale benvenuto su Blu Radio Veneto e li invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88.70 e 94.60 in FM. Per chi lo desidera, segnaliamo anche la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download sul sito bluradioveneto.it. E questa sera abbiamo un ospite importante, una new entry, diciamo, che aspettavamo da molto tempo. Sì, non è mai venuto da noi. Che è il dottor Ivano Sartor e che sentiremo subito dopo il primo brano. Buonasera, dottore. Buonasera, dottore. Buonasera. Grazie di aver accettato di essere ospite della nostra trasmissione. Ecco. Grazie a voi per l'invito. Allora procediamo con la prima canzone, sì, che è, diciamo, in ambito medievale, sì, visto l'argomento che poi citeremo, che si chiama Cantiga 119. Bene. Allora, eccoci di nuovo in studio e tratteggiamo un breve profilo del nostro ospite, che è un roncadese, è stato quindi amministratore, quindi sindaco della città di Roncade per 12 anni, Ivano Sartor, che è uno storico trevigiano. Il suo ambito di ricerca è storia delle istituzioni e delle comunità locali, trevigiane e veneziane in particolare. Ha al suo attivo oltre 80 studi pubblicati, quindi chi meglio di lui per storie de Noaltri, naturalmente. È socio effettivo dell'Ateneo di Treviso, prestigiosa istituzione fondata da Napoleone nel 1810, socio effettivo, che quindi significa a vita. I soci effettivi sono a numero chiuso e votano in caso di uno di essi che sia di partito per la casa del padre, un socio corrispondente che era appunto Ivano fino a prima e ora è socio effettivo a tutti gli effetti. Ora è qui come componente di un comitato del comitato diocesano nominato dal vescovo di Treviso per la celebrazione del 7° centenario dalla morte del beato Enrico da Bolzano. Allora, chi è il beato Enrico da Bolzano? Chiediamo al nostro ospite. Enrico da Bolzano, fino a pochi anni fa, fino a qualche decennio fa, possiamo dire, era conosciuto praticamente da tutti i fedeli della diocesi, perché la sua figura straordinaria veniva divulgata con panegirici, pubblicazioni, eccetera, eccetera. Negli ultimi decenni se ne è un po' persa la traccia, però, insomma, per molti è ancora una figura viva. Dunque, lui è una personalità, un personaggio della fine del Medioevo, che ha portato una grande esperienza di umiltà, di povertà, di devozione, di penitenza e infine di santità. Nasce, non si sa di preciso quando, ma è presumibile verso il 1250 a Bolzano. È un laico, è un uomo sposato e ha anche un figlio, di cui sappiamo anche il nome, Lorenzo. A un certo punto della sua vita abbandona Bolzano e si trasferisce in una località della diocesi di Treviso, della provincia attuale di Treviso, esattamente a Biancade di Roncade, a pochi chilometri ecco, dalla città di Treviso, dove con la sua famiglia svolge attività lavorativa, probabilmente in una proprietà dei Conti di Collalto, ma questo non è certo, comunque svolge attività lavorativa come boscaiolo. Quello era un periodo di ormai grande crescita, di crescita demografica, insomma, il territorio che era prevalentemente ricoperto di boschi aveva la necessità di essere disboscato proprio per ricavare dei terreni coltivabili e per sfamare la popolazione che era in crescita, e lui si inserisce in questa attività di boscaiolo. Da anziano, mentre la moglie muore, ecco, nel frattempo muore, il figlio rimane a Biancade e Enrico si ritira nella città di Treviso, dove tra l'altro diventa un punto di riferimento per tutti gli altri poveri, diventa mendicante per gli altri poveri e distribuisce tutto quello che gli avanza dopo aver provveduto alle poche esigenze del suo corpo, della sua persona, distribuisce tutto ecco, agli altri poveri. Muore dopo una vita di grande devozione, faceva il giro di tutte le città di tutte le chiese della città ogni giorno e anche quelle del suburbio. Ecco, pregava, si flagellava, erano delle mode, dei costumi, diciamo, molto diffusi all'epoca. Era il periodo dei flagellanti, della scuola di Santa Maria dei Battuti, eccetera. Esatto. Quindi svolge questa vita di grande penitenza, di sofferenza, di devozione totale ecco, verso Dio, verso i santi, eccetera, e nello stesso tempo svolge questa missione di carità. Diventa un po' il punto di riferimento sia per i nobili sia per il vescovo della città, che a lui mandano le offerte perché le distribuisca, generi, eccetera, agli altri poveri. Caritas d'antan, diciamo, una caritas antelitterum. Ecco, e in effetti il nostro vescovo quest'anno per le celebrazioni sta coinvolgendo le caritas proprio. E a un certo punto ecco, arriva la sua morte, il 10 giugno 1315, la sua morte diventa un'apoteosi. Comincia un flusso enorme di popolazione, di gente verso la sua stanzetta dove era morto ed è il posto dove adesso c'è il tempietto di Via Canova, il tempietto Beato Erico di Via Canova, dove un notaio da Castagnole gli aveva messo a disposizione una stanzetta al pian terreno. Lì il suo corpo viene prelevato e trasportato in mezzo a una enorme massa di gente, viene esposto alla venerazione in cattedrale di Treviso e lì avvengono fatti straordinari dei quali parleremo successivamente. E la fama, quindi la sua fama di santo, veniva detto, sempre detto Beato Enrico, ecco, Beato Rigo, Beato, sì, in genere lo dicevano Rigo, ecco, o Arrigo in italiano, in forma italiana, ecco, perché il suo nome giusto sarebbe stato Heinrich, essendo tedesco, però dalle nostre parti ancora c'è il Beato Erico, ecco, a Biancade, ecco, dove c'è l'oratorio, è la via Beato Erico, ecco, poi la gente pronunciava e traduceva il nome dal tedesco come meglio che confaceva, insomma, come gli riusciva. Ecco, quindi ha questa grande fama di santità che si diffonde un po' in tutta l'Alta Italia e nelle zone della, dell'attuale Mitteleuropa. Ecco, quindi che comincia, attorno al suo corpo, attorno alle sue spoglie, attorno alle sue reliquie, inizia un culto che poi non ha avuto più fine, insomma, cioè è sempre stato coltivato nell'arco dei secoli fino ai giorni nostri. E avvengono tanti miracoli, avvengono tanti fatti, e quindi è da questi fatti anche straordinari e da questa grandissima documentazione della quale parleremo fra un po', appunto trae fonte, trae informazione anche la nostra ricerca storica e anche la nostra devozione, perché questa è una figura di un santo, allora santo Arrigo si dice anche, o beato Enrico, eccetera. Santo e beato veniva usato quasi come sinonimi, anche se le procedure canoniche erano già ben definite. Ecco, è un santo estremamente conosciuto, diciamo che mentre un tempo prevaleva il culto verso il beato Enrico, il culto, che avremo modo di spiegare, era sia di natura ecclesiastica sia civica, perché lui diventa il compatrono della diocesi di Treviso ed è attualmente compatrono della diocesi di Treviso, ma diventa anche il comprotettore della città di Treviso. Il comune di Treviso fa propria questa figura. Siamo nel periodo della libertà comunale, in questo, nell'anno in cui muore, erano finite le grandi signorie, doveva ancora arrivare la Repubblica di Venezia. Il comune lo identifica assieme a San Parisio come uno dei comprotettori assieme a San Liberale, per cui diventa anche un santo civico. C'è tutta l'autorità comunale, il consiglio maggiore, la curia degli anziani e dei sapienti, eccetera, che si muovono, prendono provvedimenti e di fatto danno anche loro un grandissimo contributo. Perfetto. Alla diffusione di questo culto. Noi diciamo che non sappiamo la data di nascita, però sappiamo con certezza la data della morte, quindi per giorno, mese e anno. Perfetto. 10 giugno. Benissimo, allora noi ci fermiamo un attimo per il secondo brano musicale, che si chiama Gregis Pastor, eseguito dall'ensemble Micrologus. Ma di non un po' minuto, non sera se grazie di nuovo in studio. Allora, dottore, come mai noi conosciamo così bene il beato Enrico? Lo conosciamo perché ha avuto l'opportunità di avere dei biografi suoi contemporanei che ne hanno scritto la vita e le vicende. Diffusamente. Quindi. Diffusamente, sì. E più di uno. La sua morte è stato un fatto di tale evidenza e di tale importanza, con tutto quello che ha scatenato un afflusso di pellegrini. Si parlava di 30.000 pellegrini in città di Treviso. Treviso avrà avuto allora 3-5.000 abitanti, insomma. Sì, e che questo fatto ha fatto sì che la sua fama si diffondesse un po' in tutta l'Italia centrale, settentrionale, in Baviera, in Istria, eccetera, eccetera, e che arrivasse immediatamente un flusso di pellegrini di grande portata. Un po' un fenomeno da Padre Pio, ecco, di quei tempi. Allora, c'è un primo biografo, suo contemporaneo, un cronista storico, letterato, vicentino, che si chiama Ferretto De Ferretti, detto anche il Ferretto Vicentino, che nella sua cronica, ecco, scrive abbastanza diffusamente, ecco, da un concentrato della vita di questo beato Enrico da Bolzano. C'è poi una seconda vita molto più ampia che viene scritta addirittura dal futuro vescovo di Treviso, Pier Domenico da Baone, il quale al momento della morte, dell'ultima fase della vita e della morte del beato Enrico da Bolzano, era familiaris del vescovo del tempo, che era Castellano di Salomone, un vescovo del quale c'è un bellissimo, una bellissima sepoltura, ecco, nel Duomo di Treviso, ecco, un capolavoro gotico. E questo Castellano di Salomone inviava questo chierico Pier Domenico da Baone, nobile, di famiglia nobile padovana, lo inviava a portare le offerte al beato Enrico, che vedeva seduto sui gradini dell'antico Duomo di Treviso. Quindi lo ha conosciuto bene di persona, e lui, anni dopo, alcuni decenni dopo, ne scrive la vita, una vita molto lunga, molto estesa, che poi si conclude anche con la raccolta, la trascrizione dei miracoli del beato. E in questa vita dà una infinità di dettagli, appunto, sulla figura. Ce lo descrive anche fisicamente, come era piccolo, tarchiato, un po' calvo, come vestiva, cosa faceva, la sua vita devozionale, e il suo rapporto con gli altri poveri. Insomma, è estremamente dettagliata. Tra l'altro è anche un piccolo capolavoro della letteratura, perché questo Pier Domenico di Baone era un buon letterato ed era in rapporti proprio di amicizia con Francesco Petrarca. Quindi siamo in un contesto letterario, storico, di grande interesse. E questa vita adesso era già stata pubblicata anche a stampa nel corso a metà Settecento dall'Azzoni Avogadro. Tra l'altro il manoscritto di questa vita è ancora qui da noi nella Biblioteca Capitolare, abbiamo l'originale, ecco. E adesso in occasione delle feste centenarie verrà ripubblicata con una trascrizione scientifica, a carattere scientifico, insomma, si sta provvedendo adesso a una ritrascrizione, però è un testo estremamente noto. Quindi abbiamo queste due biografie di contemporanei, di persone che lo hanno conosciuto, che hanno vissuto gli avvenimenti straordinari della morte di quel giugno-luglio del 1315. Ma oltre a questo abbiamo una caterva di documentazione contemporanea di quell'anno 1315 e degli anni immediatamente successivi, perché questo avvenimento di una affluenza in città di Treviso, di una così imponente massa di pellegrini, ha indotto, ha costretto, vorremmo dire, il comune di Treviso a prendere vari provvedimenti. Dovete prendere dei provvedimenti che restano tutti scritti e tutti in documenti originali. Allora. Ecco, quindi in queste reformaciones, in questi registri di reformazione che ci sono negli archivi trevigiani, appunto abbiamo per esempio i provvedimenti che riguardano l'autorizzazione all'apertura di forni per cuocere il pane, sì, perché bisognava pure alimentare questa gente, sì, oppure l'approvvigionamento di derrate, ecco, per sfamare sta gente, oppure la nomina dei notai per iniziare a raccogliere i miracoli, a trascrivere i miracoli che avvenivano, oppure tutto quello che riguardava il culto successivo, intanto dove seppellirlo, come seppellirlo. Quindi il comune paga e ordina un'arca, che è poi quella che adesso è in Duomo come altare maggiore rivolto al popolo da pochi anni. Ecco, quella è stata per secoli l'arca nella quale giaceva il corpo, ecco, del beato Enrico da Bolzano, corpo che è ancora qui, entrando in cattedrale, primo altare a destra, appunto c'è l'altare del beato Enrico da Bolzano con il suo corpo mummificato, sì, ecco, sì. alla base ecco, nella mensa dell'altare. Ecco, quindi il comune prende numerosi provvedimenti e, oltre a questo, ovviamente iniziano a circolare le immagini del beato immediatamente. Lo dice proprio il biografo da Baone, che subito hanno cominciato a dipingere queste tavolette, ecco, con il volto che poi i pellegrini si portavano via, eccetera. E ovviamente di queste non ne abbiamo più, perché nel 1315 magari avessimo un dipinto del 1315, però abbiamo due ritratti del beato Enrico in scultura, ecco, di quello stesso anno, di quello stesso periodo, che sono nei due lati dell'arca, appunto, che attuale altar maggiore rivolto al popolo della cattedrale di Treviso, perché questa arca era posizionata nella cattedrale di Treviso sopra quattro colonnine, in modo tale che i pellegrini potessero girarvi attorno, sì, sì. E quindi su entrambi i lati vedevano la figura del beato Enrico da Bolzano, che è quella reale, realistica, è il suo ritratto. Quindi sappiamo perfino che volto, che fisionomie lui aveva. Quindi è un santo estremamente documentato. C'è stato un letterato del secolo scorso, il Serena, che ha detto: pochi santi imperatori hanno avuto tanti scrittori quanti questo povero boscaiolo, ecco, tirolese. Perché è vero, cioè non solo i suoi contemporanei che lo hanno documentato, ma io ne ho citato solo alcuni di questi provvedimenti della Reformazione scomunali, ma poi ci sono gli statuti del comune che iniziano a inserirlo tra le invocazioni, ci sono gli atti dei notai che aprivano i loro atti, appunto, con l'invocazione anche al beato Enrico da Bolzano, iniziano le donazioni da parte dei devoti, eccetera, e quindi anche quelle producono documentazione cartacea o pergamenacea. Ecco, quindi è un santo estremamente conosciuto, ed è conosciuto sia qui a Treviso sia in zone più ampie. Voi pensate che io ho trovato vicino al lago di Garda, in una chiesetta medievale, una sua immagine dipinta in affresco a Palazzolo di Sona. Ecco, è una sua immagine. I biografi antichi dicono che erano diffuse le sue immagini fino all'Italia centrale, in Istria, Lombardia, ma poi eventualmente ne parleremo. Insomma, ecco, ho trovato delle sue immagini fino in Baviera. Quindi, noto a noi, noto poi ai posteri, c'è tutto un culto che si diffonde, ecco, fino, diciamo, alla metà del Novecento. Poi c'è stata, almeno qui nella zona di Treviso, abbastanza di appannamento, di oblio, eccetera. Non così a Bolzano, Ecco. A Bolzano, ecco, a Bolzano invece ha continuato la sua figura ad essere ispiratrice di testimonianze artistiche, per esempio. Perfetto. Allora direi che possiamo fare un altro intervallo musicale in attesa del prossimo interessantissimo argomento. Un altro, che interessante veramente. Molto interessante. Sì, allora, sì. Il prossimo brano si chiama Canzone medievale italiana. E veniamo all'argomento clou con il nostro ospite, che è quello dei miracoli compiuti dal Beato Enrico. È un santo taumaturgo, perché, ne ho accennato prima, uno dei provvedimenti che prende il comune è la nomina di due notai. Questa nomina avviene di comune accordo col Vescovo Castellano di Salomone, e due notai che hanno il compito di raccogliere dai miracolati, da coloro che hanno ottenuto la grazia, le testimonianze proprio redigono i miracoli, raccolgono queste testimonianze con tanto i testimoni proprio presso il banco dei notai, diciamo. Esatto, esatto. Noi oggi li possediamo, questi sono allegati al codice trecentesco con la vita di cui ho parlato prima, la vita scritta da Pier Domenico di Baone. Però sfortunatamente le ultime pagine di questi miracoli si erano persi. Restavano tracce in scrittori dei secoli passati, ma non avevamo il testo completo. Ho potuto scoprire di recente, quest'anno, nella Biblioteca Nazionale de Paris, un manoscritto del Cinquecento, una copia di tutto quel codice, quindi con l'intero compendio dei miracoli. Sono 441 miracoli redatti dai notai. Tra l'altro uno è interessantissimo perché ci dà il nome che nessuno ha mai conosciuto prima della moglie del Beato Enrico, esatto, che si chiamava Benvenuta. Benvenuta. Il figlio, abbiamo detto, si chiamava Lorenzo. Non solo, ma sappiamo anche che non venne da solo con la sua famiglia proprio limitata, ristretta in quel di Biancate, ma fu accompagnato anche da una parentela. Almeno c'è un atto che parla di sua cognata, la sorella della moglie, che si chiamava Maria. Ecco, quindi sono delle novità che questo manoscritto parigino adesso porta e che pubblicheremo quest'anno. Allora, sono tanti i miracoli. Allora, prima di parlare dei miracoli dopo la morte, parliamo dei miracoli che i biografi riferiscono che lui fece già in vita. Alcuni sono famosi perché vengono ripresi poi dagli artisti, soprattutto nel Settecento, ecco, e inizio Ottocento ci sono diversi artisti che, di cui esistono le tele, le opere nelle nostre chiese. Allora c'è innanzitutto il miracolo del sarto. Lui a un certo momento si fa cucire all'interno del proprio vestito, che tuttora è conservato tra le reliquie della cattedrale, si fa cucire delle cordicelle all'interno e lungo tutto il vestito col quale si dormiva, una volta dormivano vestiti, ovviamente si coricava sopra delle tavole, eccetera, insomma, e per penitenza. E nel mentre questo sarto gli cuce, si taglia una mano, ecco, si ferisce ed è disperato per il suo lavoro, eccetera. Il beato lo tocca e viene risanato. Così dice, così dice il biografo, così certo. Ovviamente, ecco, il vescovo da Baone. Poi c'è un altro famoso miracolo, che è quello della pioggia. Lui stava pregando di fronte a un'immagine della Madonna dipinta all'esterno del Battistero, che è l'attuale Battistero, insomma, di fianco alla cattedrale, sì. E scoppia un grande temporale. Lui continua a pregare nonostante la pioggia battente. E da sotto i portici un po' tutti i nobili, i ragazzini lo deridono, finisce il temporale e tutti possono accertare che il suo vestito era perfettamente asciutto. Ecco, oddio, diciamo che certi miracoli sono un po' degli stereotipi della miracolistica del tempo, perché certo. Nella cultura e nella mentalità del Medioevo, se uno era santo non poteva che fare miracoli e non poteva che fare un certo tipo di miracoli, che erano poi quelli che venivano riproposti con delle varianti di biografia in biografia. Oltre a questo, il grande miracolo che avviene 4-5 giorni dopo la sua morte, il suo corpo resta esposto una settimana in cattedrale. Dicono che profumasse, siamo a metà giugno. Come Padre Pio. Ecco, esatto. E analogia. Dopo 4-5 giorni comincia a uscire sangue dal suo corpo, dalle narici, esce sangue. Sangue profumato, eccetera, viene raccolto, dicono i biografi, nelle bacili d'argento e vengono poi messi in ampolle. Una di queste grandi ampolle esiste tuttora nella cattedrale di Treviso, nel tabernacolo dell'altare del Beato Enrico Bolzano, e viene esposta alla venerazione ogni 10 giugno. Nel 1965 il vescovo Mistrorigo nominò una commissione di periti, periti anatomopatologi, eccetera, dell'Università di Padova, i quali hanno analizzato questo sangue liquido e hanno concluso che si tratta, non si può definire a distanza di così tanti secoli, di sette quasi secoli dalla morte, se sia o non sia sangue, ma hanno concluso che è materiale organico. E concludono dicendo che non è spiegabile perché un materiale organico liquido si conservi appunto allo stato liquido, come abbiamo detto, ecco, a distanza di tanto tempo. Quindi è il miracolo del sangue, che era stato molto noto nel passato, eccetera, e del quale ci siamo dimenticati. Ricorda San Gennaro. I miracoli del sangue, esiste molta letteratura sui miracoli del sangue nel Medioevo, erano molto diffusi, la stessa Napoli, non è solo San Gennaro, tanti altri santi. Però qui, ecco, i napoletani hanno capito la filosofia vera della vita, ecco, rispetto a noi. È la liquefazione che si ripete, cioè esatto, è un po' anche tutta la scansione, la sceneggiata, la devozione, esatto. Che tiene alimentato il culto. Il fatto che sia sempre liquido viene dimenticato. Però oltre a questo vengono raccolti tutti gli altri miracoli. Abbiamo detto che i notai ne hanno attestati 441. Tra questi ce ne sono alcuni di molto belli, importanti. C'è quello di un gruppo di bellunesi che viene giù da Cividale di Belluno, l'attuale Belluno, lungo il Piave con una zattera, sbatte contro la zattera, contro un pilone del ponte di Cesana e invocando il Beato Enrico al quale stavano andando, ecco, si salvano tutti. è un miracolo anche interessante, perché testimonia, è l'unico documento medievale che ci dice dove passava la Claudia Augusta, il ponte di, sul ponte di Cesana. Ecco. Ma poi ce n'è uno molto bello che io vorrei leggervi, non è molto lungo. Benissimo. Ecco, che riguarda un padovano, anzi un veneziano, sì, attualmente sarebbe, ma in diocesi di Padova, sì. Ve lo leggo testualmente, sì, tradotto. Michele del fu Pietro Grande da Prozzolo, in diocesi di Padova, Prozzolo e Campo Nogara, disse che alcuni giorni prima, mentre correva a cavallo, era rimasto vittima di una caduta con conseguente rottura della tibia destra. Al medico che lo aveva curato secondo le consuete modalità, fasciandolo e legandolo attorno all'arto, alcune stecche, Michele chiese il permesso di andare a visitare il corpo del Beato Enrico, ottenendo dal medico una risposta che consigliava una certa prudenza, perché mancavano le condizioni per poter fare un cammino così lungo in condizioni di sicurezza. «Il Beato Enrico certamente ti potrebbe guarire», gli disse il medico, dimostrando di non avere dubbi sulla possibilità di un miracolo, «ma il viaggio è pericoloso a causa della frattura dell'osso». Michele gli rispose: «Voglio partire subito perché spero in Dio e nel Beato Enrico. Essi mi saranno di aiuto nel mio cammino». Affrontò dunque il viaggio aiutandosi con le stampelle. Giunto a Treviso, entrò nella chiesa maggiore e vi passò la notte. Oggi, il 3 luglio 1315, non sentendo alcun dolore alla tibia, Michele ha messo le stampelle sulle spalle e si è messo a camminare per la chiesa, guarito e in posizione eretta. Fu testimone della scomparsa della frattura il maestro chirurgo Francesco, che ha esaminato la situazione della tibia. Dell'esistenza della precedente condizione di malattia di Michele è testimone Domenico di Giacomo da Boion di Padova. Questo è il testo letteralmente tradotto dal latino. Straordinario. Ecco, così immaginate 441 miracoli con descrizione di così. È un documento anche storiograficamente estremamente importante per la nostra storia. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Allora, noi passiamo adesso a un altro brano musicale. E che si chiama Da che Deus Mamou di Arani Zoltán. Non è maraviglia, ne sarà concreto. vida, pois que lobre mercirá, Senhor, comprida, e no mês de agosto, no mês do reino, nasce deste grande, como vosso peito, da que Deus não vole, de nosso peito, não é maravilha, deixa a conteito, será agora perdida. Deus não mole, de doce peito, não é maravilha, deixa ar com peito. Quero ouvir quando a calde a língua salada, cada mundo é roto, cinco dias de espalhaia. Vem comer maneira, dulce cabra de peito, quando senta nida, o nervio é coleito. Dá que Deus não mole, de doce peito, não é maravilha, deixa ar com peito. Toda gente de antes te ando, vendo que este hoy me rijo corando, vieron que milagre foi en un trasgueito, por ende lo aron a virgen afeito, da que dei sono. Eccoci di nuovo in studio. Dottore, è vero che anche il Boccaccio ne ha parlato del Decamerone, nel Decamerone? Sì, certamente, e anzi è uno dei motivi per cui la figura del Beato Enrico, magari non conosciuta in modo approfondito, è nota, ecco, a tutto il mondo degli studiosi a livello universale, possiamo dire, perché si tratta di uno dei più grandi capolavori della letteratura occidentale. E c'è una novella, esattamente la prima novella della seconda giornata del Decamerone, che è ambientata a Treviso, al punto che è detta la novella trivigiana. La novella è la novella di Martellino ed è ambientata attorno all'evento della morte del Beato Enrico da Bolzano. C'è questo episodio di tre toscani che vengono a Treviso, attratti anche loro da degli avvenimenti straordinari, di miracoli, eccetera, che avvenivano attorno al corpo del Beato ancora esposto in cattedrale. Ecco, e uno di questi, Martellino, fa una piccola truffa e espone, come si può dire, il Boccaccio espone uno di quei vizi italiani che sono tuttora molto frequentati, cioè quello di saltare la fila. Ah. Ecco, no. Allora lui si finge ammalato, si finge zoppo, rattrapito, e allora c'era una corsia preferenziale anche allora per le categorie protette, e quindi lo mandano avanti, salta appunto il suo turno, arriva di fronte al corpo del Beato Enrico e si mette a urlare, a strepitare, a correre, ecco, guarito, sono guarito, miracolo, miracolo, sono guarito. Se non che alcuni trevigiani che lo avevano visto il giorno prima gozzovigliare in una taverna lo riconoscono, lo catturano, lo fanno catturare e lo portano di fronte al podestà, dove viene giudicato e lo attenderebbe, per la profanazione che ha effettuato, la pena capitale, ecco, la pena di morte. Ecco, se non che riesce a scappare e a mettersi in salvo, grazie anche all'aiuto di alcuni fiorentini, si fanno nomi e cognomi, figure storiche veramente esistite, di banchieri fiorentini che operavano in Treviso, e quindi finisce così. Questo è il racconto del Boccaccio nel Decamerone. Viene il Boccaccio, ovviamente ne parla in lingua volgare, nel nostro italiano, e lo definisce il santo Arrigo. Ah, il santo Arrigo. Ecco, questo fatto, questo brano letterario è un brano di grande prestigio, appunto, che porta questo povero mendicante, boscaiolo mendicante trevigiano, oggi ad essere conosciuto in tutto il mondo. Straordinario. Bello, bellissimo. E quale culto è stato prestato a Beato Enrico nei vari secoli? Abbiamo detto che il culto inizia dalla sua morte. Il culto viene promosso di comune accordo tra Chiesa diocesana, vescovo, quindi clero secolare, non regolare. Allora esistevano in città vari ordini mendicanti, francescani, domenicani e serviti, ed eremitani. Ecco, il vescovo e il capitolo della chiesa di Treviso, della chiesa cattedrale, appena sentono le campane suonare che annunciano la morte del santo Arrigo, del beato Enrico. Tra l'altro il biografo dice, contemporaneo dice, che le campane della cattedrale hanno cominciato a suonare senza essere mosse da mano umana, soavemente, e questo episodio poi viene ripreso molto anche nella iconografia dei secoli successivi. Si muove la processione, vanno a prelevare la salma del beato nella sua stanzetta dove era morto. Le donne testimoniano che hanno visto una colomba annunciare, volare sopra questa stanzetta, ecco, fare tre giri, e quindi la colomba, la Santissima Trinità, sostanzialmente, questo ecco nel racconto biografico, e trasportano in cattedrale. Quindi il culto è immediato. Se ne fanno carico, come dicevamo, sia la diocesi che lo elegge a compatrono, sia il comune di Treviso che lo mette tra i patroni, ecco, della città. Attorno al suo altare viene costruito un altare nella chiesa addossato a una delle colonne della navata centrale, che poi nel Cinquecento sarà portato, ecco, sull'esterno, sulla parete, e poi quello che vediamo adesso è quello in seguito alla ristrutturazione di metà Settecento del Duomo di Treviso, è un nuovo altare, e da lì appunto c'è, cioè, attorno alle sue reliquie c'è la messa quotidiana, ci sono legati di messe che vengono disposti dai defunti con i loro lasciti, vi sono le offerte, il comune deve annualmente portare cere, dare offerte proprio stabilite dagli statuti del comune, la sua immagine circola, ve n'è una anche sotto una delle porte cittadine attuali di Treviso. Circola, viene riprodotta, viene, e il giorno della sua morte è ferie di palazzo, cioè vuol dire festa nazionale, sì, ecco, sì, per il comune, sì, di Treviso, sì. Quindi tutte le botteghe chiudevano, le attività cessavano, era una festa proprio di precetto, e questo fino alla fine della Repubblica di Venezia, fino alla fine del Settecento. Poi con l'Ottocento le cose cambiano. Si costruiscono quindi altari, cappelle, fino poi verso gli anni 30 dell'Ottocento viene costruito l'attuale tempietto del Beato Enrico da Bozzano nella località di Pancera, attuale via Canova. Sì, sì. Ecco, e poi a Biancade questo culto è diffuso soprattutto in tre zone. È diffuso anche in un'area molto più vasta, ma soprattutto a Treviso città, in Biancade, dove c'era la tradizione che lui avesse vissuto e lavorato da boscaiolo, e a Bolzano, dove tuttora esiste il maso del Beato Enrico da Bolzano, c'è una chiesa, e dove ci sono delle sue reliquie donate dalla diocesi di Treviso, esposte nella chiesa cattedrale cittadina, appunto, nella chiesa prepositurale di Bolzano. Oltre a questo è interessante dire che la sua immagine la si può vedere in facciata del Duomo di Innsbruck, in Austria, è una statua, proprio una grande statua nella facciata, e in un altare della cattedrale di Santo Stefano di Vienna. Benissimo, allora andiamo con l'ultimo brano musicale, sì. L'ultimo intermezzo, si chiama Alla corte di Federico di Sebastiano Occhino. come si pensa, dottore, di ricordarlo, il beato Enrico, nel settimo centenario della morte? Sono già in corso delle attività preparatorie e il momento centrale sarà il 10 giugno, ecco, quindi 1315-2015. E un comitato si è costituito spontaneamente circa un anno fa e alcuni mesi dopo il vescovo di Treviso, il nostro vescovo, lo ha formalizzato con proprio decreto. Comprende esponenti della Chiesa trevigiana, religiosi e laici impegnati nel settore culturale e storico. Vi sono due aspetti prevalenti delle celebrazioni del ricordo. Il primo è quello del culto, ovviamente stiamo parlando di un santo, di un beato, e quindi ovviamente ci sono le attività connesse tipiche del culto, soprattutto la festività del 10 giugno. Ecco, in cattedrale di Treviso vi sarà una cerimonia con il coinvolgimento di tutti coloro che nella diocesi si occupano di carità, di attenzione al prossimo, a cominciare da tutte le caritas esistenti in diocesi e ad altri gruppi, ecco, che parteciperanno a queste funzioni di culto. 50 anni fa, nel 1965, si era privilegiato l'aspetto del lavoratore, coinvolgendo la coltivatori diretti, soprattutto perché il suo essere contadino. Tra l'altro, beato Enrico Bolzano, in area tirolese, la sua iconografia punta di più sull'aspetto del contadino e del vignaiolo, mentre da noi è appunto sull'aspetto del boscaiolo, sì. Con tutti i suoi arnesi, i suoi attributi. Quindi ci sarà le celebrazioni religiose nelle varie chiese e soprattutto nelle tre località focali del suo culto, che sono quelle di Treviso, ovviamente, ecco, quella di Biancade, dove c'è l'oratorio che ha oltre 100 anni, ha 100 anni in sostanza, è stato costruito al posto della casa del beato Enrico, e a Bolzano, anche a Bolzano hanno un intenso calendario di attività già programmate da tempo, sia nella chiesa prepositurale sia nella chiesa del Maso del beato Enrico. Oltre a questo vi è il filone culturale. Mentre una volta la figura del beato Enrico veniva fatta conoscere attraverso i panegirici, le predicazioni, eccetera, adesso la gente verrà raggiunta più con l'aspetto culturale, e quindi sono previste le pubblicazioni di due biografie, una di larga diffusione con una casa editrice nazionale che è già stata scritta da Gian Domenico Mazzocato, e la seconda di carattere scientifico che ho curato io, e che la prima vedrà la luce per entro il 10 giugno, la seconda per l'ottobre di quest'anno, perché a ottobre ci sarà l'evento, un altro grande evento conclusivo di taglio scientifico, un convegno internazionale di studi organizzato in collaborazione tra Diocesi e Ateneo di Treviso, dove verranno analizzate da studiosi che provengono dalla Germania e dall'Italia, ecco, un po' tutti gli aspetti connessi alla figura del beato Enrico e della cultura e della civiltà del suo tempo, che è quello appunto di passaggio tra la metà del 200 e gli inizi del 300. Quindi questi i due filoni, quello del culto, della devozione, che è quello della cultura. Avremmo anche voluto aggiungere anche quello dell'arte, perché è interessantissima, esatto, anche la testimonianza artistica di beato Enrico Bolzano, ma si sta ancora riflettendo sull'opportunità di un'iniziativa, di una mostra, ecco, sulla sua iconografia, perché è un'iniziativa anche più difficile da realizzare e anche costosa. Quello che invece si potrebbe fare è una puntata a Santa Maria di Castello in Biancade, di Roncade, di Treviso, sì, da precisare naturalmente, dove è sepolta? è sepolta per tradizione, non esatto, abbiamo la certezza, la moglie e probabilmente anche il figlio che ha continuato ad abitare a Biancale, perché esistono degli atti notarili che lo testimoniano. Ecco, dobbiamo dire che è stata una trattazione estremamente interessante, molto interessante, anche sì, perché ha portato elementi nuovi, altro diciamo che del tutto inediti, e poi perché proprio dà questa, come posso dire, questo revival di spiritualità e compagnia che credo di questi tempi sia assolutamente necessario. Non so se il nostro ospite concorda con questo. Sono d'accordo, lui ha un tipo di spiritualità e di penitenza, ecco, che sono molto, come si può dire, tipici del suo periodo, di, con le flagellazioni, penitenze estreme, eccetera. Però ha anche dei messaggi che sono molto più attuali per noi, che è quello dell'attenzione al prossimo, l'attenzione agli ultimi e la carità, all'ambiente, ecco, certo, e soprattutto del, come si può dire, del volontariato, della dedizione agli altri, perché sì, appunto, come spiegavo negli episodi narrati della biografia, lui fa il mendicante a favore dei più poveri. Ah, straordinario. Che bellissimo. Non ci resta che ringraziare così il nostro ospite. Il nostro ospite, e naturalmente lo attendiamo un'altra volta. Certo. Non senza aver dato così un promo per la prossima nostra, diciamo, serata, che avrà come ospite la dottoressa, la professoressa Barbara Baldan dell'Università di Padova, Dipartimento di Biologia, che parlerà dell'orto botanico. Benissimo. Ecco. Allora, non ci resta altro che ringraziare i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Intanto ringraziamo anche il nostro ospite ancora. Grazie a voi, buonasera a prossima volta. E a voi tutti, cari ascoltatori, vi dico come sempre, ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.